Una sera, a Parigi, Pereira si reca in dolce compagnia al ristorante La Perusa. Il fisionomista del luogo lo riconosce e vuole vietargli l'ingresso. Anziché farlo fuori all'istante, come è tentato di fare per un attimo, il fisionomista non saprà mai che rischiò di essere la terza vittima di Manuel Pereira da Ponte Martins, dittatore agorafobico istintivo. Pereira lo attira a sé e gli parla direttamente nell'orecchio. No, non è il sosia del presidente Pereira da Ponte. È il presidente Pereira da Ponte in persona, venuto in Europa per porre fine ai misfatti del sosia, per l'appunto. Il fisionomista avrebbe accettato di lavorare per lui. Sarà profumatamente pagato e abbondantemente premiato in caso di cattura. Il documento più eloquente degli archivi di Teresina sul soggiorno di Pereira in Europa è, senza alcun dubbio, la lettera in cui il fisionomista chiede rispettosamente il suo compenso, ignorando ben inteso che il suo nome andrà ad aggiungersi a quelli dei creditori di cui ha allegato l'elenco completo, per dimostrare la serietà del suo lavoro, quindi la fondatezza della sua richiesta. Si chiamava il fisionomista Félicien Pons. Insomma, Pereira si divertiva. Meste, peraltro, le distrazioni. In ogni caso, si divertiva senza ridere. E ciò non fa mai presagire nulla di buono. Forse erano una questione di temperamento quei sollazzi senza gioia. È possibile farsi un'idea abbastanza precisa del suddetto temperamento se si studiano con attenzione le origini del bacalhau domenino, il merluzzo del bambino, piatto che si può ordinare ancora oggi nei migliori ristoranti dell'Estoril. Uno strato di peperoncino rosso, uno strato di fagioli neri, uno strato di riso in bianco, uno strato di tuorlo d'uovo, uno strato di cipolle rosolate, uno strato di merluzzo e così di seguito 7 volte. Peperoncini, fagioli, riso, uovo, cipolle, merluzzo, il tutto cosparso di farina di manioca, poi lasciato a lungo sotto la brace, oggi più spesso in forno, finché non acquisisce la densità di un blocco di calcestruzzo poco invitante. La leggenda vorrebbe che questo fosse il piatto di carità di Pereira, da lui stesso ideato sin dall'infanzia per nutrire i poveri. Fatta la verifica, è tutto vero. Ma con la cucina è come con le più belle opere d'arte. Non sappiamo nulla di un piatto fino a quando ignoriamo l'intenzione che l'ha fatto nascere. Per scoprire cosa sta dietro al bacalhau domenino, bisogna andare oltre le chiacchiere dei ristoratori. Piatto di carità, figuriamoci, quanto hai pagato, tesoro? Per ascoltare quelli che davvero conobbero Pereira a fondo. Le donne, per esempio, grandi creatrici di mitologia nei periodi felici, instancabili cacciatrici di verità appena il cielo si oscura. E per citarne solo una, Kathleen Lockeridge, la ballerina scozzese. Se leggerete le circa 4.000 pagine manoscritte delle sue introvabili memorie, vi imbatterete nel resoconto di una cena, all'Estoril per l'appunto, dove le fu servito il bacalhau domenino sotto l'occhio scrutatore di Pereira.